Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo, tornerà a trovarci per la prima volta nel 2017 il mitico uccellaccio Giulio Sapelli. Perché? Perché parleremo non solo dell'incontro tra Trump e Theresa May, quindi l'alleato speciale britannico, come l'ha già definito il neopresidente americano, ma anche e soprattutto nella seconda parte di quella che è la posizione europea nei confronti dell'Italia. Allora, stiamo ancora sul fronte delle trattative, mica tanto, perché l'Europa ha detto vogliamo un piano chiaro, entro il primo di febbraio deve arrivare una lettera dall'Italia che ci spieghi come l'Italia ridurrà dello 0,2% del PIL, cioè 3,4 miliardi, il suo deficit rispetto a quanto messo in finanziaria. Da quel punto di vista il governo, o meglio già ieri avevamo chiarito come il tema fosse più che tecnico, cioè per recuperare queste risorse magari anticipando alcuni provvedimenti previsti per il 2018, penso per esempio al riordino del sistema di agevolazioni, deduzioni e detrazioni fiscali, in altri casi anche l'anticipo di alcuni tagli di spesa pubblica, c'è poi chi ipotizza cessioni di privatizzazione da anticipare, però già abbiamo chiarito due giorni fa che il tema non è di carattere tecnico, cioè trovare le risorse, resta principalmente politico. Tradotto, se si va a elezioni a giugno la resistenza è più forte e quindi poteva essere non politicamente vantaggioso avere una manovra correttiva. Il punto è che Bruxelles sia ieri che oggi ha ribadito come si aspetti impegni chiari da parte dell'Italia. Lo ha fatto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, che ha detto da Roma aspettiamo dettagli, impegni chiari, e il ministro dell'economia Padoan, dopo aver chiarito che le misure sul terremoto sono indipendenti dalla risposta che Bruxelles si attende, la commissione non vuole includere le spese per il terremoto che non sono strutturali, di cui si può discutere ma a parte. L'Italia invece cerca di ottenere maggiore flessibilità sui conti anche alla luce degli ultimi disastri. Però Padoan ha detto attenzione, perché una procedura di infrazione sarebbe un grosso problema in termini di reputazione che l'Italia ha costruito, sarebbe un'inversione a U rispetto a quello che abbiamo costruito fino ad adesso. Allora ascoltiamo, partiamo subito da qui, poi oggi torna la poco invidiabile classifica di Focus Economia che abbiamo sospeso la settimana scorsa, ricordate l'emergenza tra Gran Sasso, e poi anche la diretta sul giuramento del neopresidente Trump, e faremo poi il punto della settimana di Trump e la settimana anche dell'economia italiana a Bruxelles nella seconda ora del programma. Prima di partire però con le notizie in breve e con gli aggiornamenti, do un aggiornamento invece di borsa: meno 0,70% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,35% Francoforte, più 0,15% Londra, invariata l'America col Dow Jones. Segnalo che di nuovo è forte ST Microelectronics, più 3,14% come ieri, Ferragamo più 2,5%, Hughes Net-a-Porter recupera un po' il 2,11%, Luxottica l'1,5%. Il fronte generale invece vede flessioni, in parte anche realizzi dopo la corsa molto forte degli ultimi giorni per Unicredit meno 4,86%, Generali stessa perde un altro 2,40%, attenzione era molto cresciuta da inizio settimana. Invece per quello che riguarda gli altri titoli coinvolti i movimenti sono molto più marginali: Intesa San Paolo più 0,80% e Mediobanca meno 0,80%. È in corso oggi, c'è stato il consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo, non è all'ordine del giorno generale. Ieri era intervenuto il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, per la cerimonia dei 10 anni della fusione tra Intesa appunto e San Paolo, dicendo c'è stata una fuga di notizie che riguarda una serie di analisi strategiche con diverse alternative possibili, noi siamo trasparenti, non agiremo da corsari. Quando difendiamo l'italianità, questa è la battuta forse più maliziosa, lo facciamo parlando in italiano, non parlando in francese. E vabbè, però per ora siamo alle chiose, al botte risposta. Vedremo, abbiamo spiegato molte volte nel corso della settimana che le generali, oltre a essere il terzo gruppo assicurativo d'Europa, oltre ad avere 500 miliardi di asset in pancia, hanno più o meno 60 miliardi di titoli di Stato italiani. Ora, questo è un dato importantissimo, vuol dire tre manovre, tre punti di PIL di titoli di Stato. E allora il timore qual è? Che delle generali non, diciamo, italiane come obiettivo potrebbero andare a rivedere la loro posizione sul titolo di Stato. Ora è tutta una teoria, in questo momento le generali restano come sono, hanno solo un'opzione, un affitto per il 3% di Intesa San Paolo. Però il tema sistemico riguarda anche la presenza in pancia delle generali di un pezzo non indifferente del debito italiano, è inutile girarci attorno. È ovvio che se tu avessi delle generali a controllo straniero, uno straniero potrebbe dire: beh, a me cosa interessa essere investito sul debito italiano? Generali italiane sono più sensibili al debito italiano. Non c'è nulla di strano, vale anche per i grandi gruppi assicurativi, penso a Allianz in Germania e AXA in Francia, il ruolo strategico di un gruppo. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dicevo del non è neanche un botta risposta, sono semplicemente un insieme di dichiarazioni. Partiamo da quelle del commissario europeo, anzi vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, che ha chiesto in maniera netta all'Italia impegni chiari nella lettera che deve mandare l'Italia entro il primo di febbraio. L'Italia ha un livello di debito pubblico molto alto, livello che negli ultimi anni non è sceso. Insieme al commissario Moscovici abbiamo inviato una lettera alle autorità italiane con la richiesta di misure ulteriori sul fronte dei conti pubblici, pari ad almeno lo 0,2% del PIL. Senza alcun dubbio ci aspettiamo che queste misure siano indicate in modo chiaro e preciso. Sulla questione del rispetto delle regole di bilancio del patto di stabilità da parte dell'Italia, abbiamo avuto discussioni intense per alcuni mesi con il governo. Naturalmente ci rendiamo conto che ci sono alcune difficoltà riguardo alla velocità con cui queste decisioni possono essere prese, ma in questo caso ci attendiamo da parte del governo impegni chiari con le misure indicate esplicitamente. E poco dopo è arrivata anche la risposta del ministro Padoan, ripeto appunto una procedura di infrazione sarebbe un'inversione di tendenza della reputazione che ha costruito l'Italia in questi anni, e quindi dice attenzione, il danno reputazionale sarebbe molto forte. La Commissione aspetta una risposta, il primo febbraio questa risposta arriverà. Sicuramente le spese, ahimè, necessarie per via dell'emergenza e anche per la ricostruzione saranno considerate, ci sarà un incremento delle spese, mi aspetto già delle misure concrete la prossima settimana da parte del Governo. Quindi questo indipendentemente da come si risponderà alla richiesta della Commissione di effettuare un aggiustamento. Una procedura di infrazione sarebbe un grosso problema per l'Italia in termini di reputazione che in questo periodo recente ha rafforzato e costruito, quindi una procedura di infrazione sarebbe un'inversione a U rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. con Alberto Orioli. Ha ragione il ministro Piercarlo Padoan, l'apertura di una procedura per debito eccessivo sarebbe negativa per l'economia italiana perché provocherebbe sui mercati finanziari nuovi dubbi sulla solvibilità del paese. Lo ha detto chiaro e tondo a Bruxelles durante la riunione dell'Ecofin. La valutazione dell'Europa dei conti pubblici nel nostro paese come sempre è un test per l'Italia, ma stavolta è davvero anche un test per l'Europa stessa. Non ha senso ragionare su limiti e soglie ragionieristiche. L'Europa ci contesta uno sforamento dello 0,2% sul deficit e chiede una manovra aggiuntiva di 3,4 miliardi. Non ha senso quando l'Italia è sotto il flagello del terremoto e subisce condizioni naturali eccezionalmente negative. Non a caso la stessa UE ha già mostrato segni di apertura quanto alle somme che il nostro paese dovrà stanziare per tentare di mettere in campo un'azione di prevenzione e ricostruzione degna di questo nome, per ciò stesso destinata ad avere tempi lunghi nella sua realizzazione. In tempi in cui lo spread ha mostrato qualche segno di risveglio e si è portato oltre soglia 170, è pericoloso giocare con la reputazione dei singoli paesi. Un aumento ulteriore dello spread per l'Italia significa un onere aggiuntivo rilevante per far fronte al costo dei tassi di interesse pagati dallo Stato ai possessori dei titoli pubblici. Ciò che i mercati già adesso fanno scontare all'Italia è il rischio dell'incertezza politica, perché non è ancora chiaro quale sia il percorso della nuova legge elettorale e quindi di un'eventuale nuova data del voto. Ma c'è anche una narrazione ad uso di certa speculazione propria dei mercati finanziari, sempre a caccia di pretesti per cavalcare le oscillazioni. Ai più sembra che siano possibili condizioni di compromesso senza costringere il neonato governo Gentiloni a manovre che avrebbero un sicuro effetto di strozzare quel po' di ripresa che c'è. È davvero auspicabile che l'Europa del buonsenso possa finalmente battere un colpo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, altre notizie in breve prima di arrivare alla classifica. Per quello che riguarda il nostro spread, comunque le tensioni ci sono anche oggi, non è drammatico, ma è a 175 punti, è ai massimi dal 2015. Il BTP a 10 anni rende il 2,22%, interessante nel senso di negativo il divario con la Spagna, che è di 111 punti base a questo punto tra quanto costa finanziare il nostro debito e quanto costi invece agli spagnoli, che hanno uno spread con rispetto al Bund tedesco di 111 punti. Oggi però il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi e mezzo di bot a 6 mesi, con scadenza appunto 31 luglio 2017. I tassi sono un po' in rialzo dal minimo storico, però il rendimento è sempre negativo, cioè meno 0,28% contro il meno 0,31%. Domanda molto buona, con una copertura di 10 miliardi. Il rapporto è in crescita, cioè una volta e mezzo, più di una volta e mezzo l'offerta, e devo dire che comunque insomma il fatto che si compri debito italiano a 6 mesi e ci si perda, perché questo vuol dire rendimento negativo dello 0,2, ci lascia abbastanza tranquilli. Qui è merito comunque di Mario Draghi, non è solo merito della credibilità italiana, anzi. Per quello che riguarda i dati Istat di oggi, fa sapere che nel 2016 le retribuzioni sono cresciute solo dello 0,6%, ossia ai minimi dal 1982, incrementi quasi dimezzati dal 2015, a dicembre più 0,4%. Cala la fiducia dei consumatori a gennaio, cresce invece, scende da 110,9 a 108,8 punti, si mantiene comunque a un livello superiore a quello del novembre 2016. Cresce leggermente quella della fiducia delle imprese da 100 a 102 punti, però la buona notizia è che per la prima volta dall'inizio della crisi le opinioni dei consumatori sul proprio bilancio familiare, fa sapere l'Istat, raggiungono il livello medio del periodo gennaio-febbraio 2007, cioè di 10 anni fa, ossia i giudizi sono all'insegna della stabilità per il 54% del campione, migliorati per il 28%, peggiorati o molto peggiorati per il 16%. E adesso due notizie in breve prima di partire con la classifica. Da un lato una buona notizia. Con il prezzo unico nazionale di aghi e siringhe, uno dei simboli della spending review su cui molto ci siamo spesi, anche criticando la lentezza, e insomma è crollato il prezzo, sarà strano, delle siringhe e degli aghi. In base alla gara della Consip appena chiusa, la siringa comune per iniezioni costerà in tutta Italia tra gli 0,049 agli 0,063 centesimi a seconda delle dimensioni. Insomma, il ribasso rispetto al prezzo base d'asta è del 70%. Il valore della gara è del 36 milioni di euro, a fronte di una spesa annua per tutte le tipologie di aghi e siringhe acquistate dalla pubblica amministrazione che è di 150 milioni di euro. Uno può dire ancora poco, ma ti dimostra che margine c'è se riesce a mettere dei costi standard e delle gare anche di carattere controllate e non lasciate alle singole ASD su forniture classiche come appunto siringhe in questo caso e aghi. Allora, veniamo invece a altre due cose. Roma, l'OREF, quindi l'organismo, l'organo di revisione economica e finanziaria del Comune di Roma, oggi Federica Tiezzi, sentita in aula Giulio Cesare, ha detto: abbiamo dato l'ok al bilancio e quindi, pur essendo il nostro parere favorevole sul bilancio del Comune di Roma, perché l'equilibrio sembra rispetto al precedente bilancio più realizzato, resta il discorso di tutte le criticità che potete vedere nelle riserve. Che cosa dice l'OREF? Dice: attenzione, è vero che il bilancio presenta un equilibrio, ma se l'ente non si attiva, i rischi potenziali che ci sono metterebbero comunque l'ente a rischio, se basta uno scostamento dagli obiettivi per mettere a rischio l'intero bilancio del Comune di Roma. Invece a Taranto oggi sono 44 dipendenti dell'AMAT, l'azienda per il trasporto urbano, che si sono visti notificare dalla polizia l'avviso di conclusione delle indagini per truffa e false attestazioni in concorso. Erano assenteisti, passavano badge anche per i colleghi e uscivano. Ma insomma, di questo ormai non lo mettiamo neanche più nella classifica. Partiamo invece con la classifica: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La classifica della settimana. Allora, oggi una classifica molto mista. Partiamo dal quinto posto, dove insomma il danno economico non è nemmeno così rilevante, parliamo di migliaia di danno, insomma, l'esborso economico, però qui c'è un problema di opportunità e capire se insomma hanno le nostre istituzioni su base regionale, in questo caso, visto che parliamo di Reggio Calabria, il senso del ridicolo oltre che il senso di quello che stanno facendo. Perché? Allora, fra tutti i medici della regione Calabria, sia quelli disoccupati che quelli non disoccupati, la regione Reggio Calabria decide di affidare l'incarico di responsabile della sicurezza sanitaria della cittadella, cioè della sede della giunta a Catanzaro, a un medico legale che attualmente è imputato per truffa e falso in atto pubblico. Gli rinnova anche la consulenza. Lui si chiama Ottorino Zuccarelli, tra l'altro ha un'esperienza medica interessante, nel senso che ha fatto anche molta politica. Dal 93 a oggi ha ricoperto vari incarichi istituzionali, era sindaco del piccolo comune di San Fili negli anni 90 e poi è tornato sullo scanno più alto all'amministrazione nei primi anni 2000 fino al 2015. Tra l'altro nel 2009 il suo ruolo viene sommato a quello di consigliere in quota PD alla provincia di Cosenza, proprio quando a presiedere la provincia di Cosenza era l'attuale governatore della Calabria, Mario Oliverio. Comunque, lui non abbandona, nonostante la carriera politica, il ruolo di medico. Dal 1989 è in forza all'ASP, azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dove ricopre il ruolo di responsabile dell'unità operativa di medicina legale di Rende, ma soprattutto è responsabile della commissione per il riconoscimento delle invalidità. E qui nascono i problemi. Nel 2010 Zuccarelli finisce ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Ippocrate, che ha svelato, si fa per dire, un gigantesco giro di false certificati di invalidità rilasciati da medici compiacenti ai fannulloni. Le telecamere nascoste dagli investigatori più volte li riprendono mentre timbrano il cartellino e poi vanno via. Uno di loro era Zuccarelli, che per questo oggi è sotto processo con le accuse di falso e truffa. Però lui non si imbarazza né si ferma, va avanti. Dopo la nomina e la rinuncia quasi immediata della dirigente interna Silvana Angela Emilia De Filippis, per evitare un periodo di scopertura, viene bandito un avviso pubblico dalla regione, oggetto 230 visite al personale amministrativo e altri tanti test per la vista, 50 visite al personale non amministrativo, altrettanti esami ematochimici con prelievo venoso e 12 drug test urine da effettuare in 6 mesi. Chi si sceglie? Si sceglie proprio Zuccarelli. Dice che la regione che era la scelta economicamente più vantaggiosa, e quindi gli vengono liquidati lo scorso 13 dicembre 13.500 euro. Poi alla regione però il medico imputato continua a piacere, perché si vede prorogare l'incarico per altri 3 mesi, per altri 7.500 euro, e poi il 5 gennaio scorso per altri 45 giorni al prezzo di 3.700 euro. Ora, al di là, perché la regione non riesce a provvedere in tempi solleciti alla procedura di gara per il servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, cioè la regione dice che non riesce, e sì che i mesi sono passati, a provvedere alle procedure di gara. Dimettiti se non riesci a fare la procedura di gara, ma soprattutto siamo sicuri che in tutti i medici della regione Calabria non vi sia nessuno in grado di fare questo? Anche perché, col massimo rispetto per Torino Zuccarelli, ha svolto buona parte della sua attività in politica, è indagato per una cosa non da ridere, perché c'è poco, è finito pure i domiciliari, ma io mi chiedo, insomma, che tipo di credibilità possa avere uno quando deve poi fare 230 visite al personale amministrativo della regione stessa, uno che timbrava il cartellino, perché questa è l'accusa, ci sono le telecamere che timbrava il cartellino per poi andare via. Ma ci rendiamo conto? Non so, ci rendiamo conto? No, non ci rendiamo conto. Oh, andiamo al quarto e al terzo posto, che viaggiano di pari passo. Perché? Perché l'Italia, si dice, è patrimonio di cultura, è il nostro giacimento, il nostro oro, il nostro petrolio, sono, e la cultura di casa in Italia, sì, è vero, la cultura di casa in Italia, ma anche la casa è di cultura in Italia. E adesso vi spiego il gioco di parole. Perché vi sembra possibile, parto da Firenze, che all'interno del giardino di Boboli, attigua l'ex scuderia reale e dentro il parco dell'ex Villa Reale di Sesto, insomma, la Corte dei Conti scopre, la faccio breve, e formula l'accusa di danno erariale, perché le casse dello Stato sembra che ci abbiano rimesso fino a 3 milioni di euro nel periodo che va da gennaio 2012 a marzo 2016, ma se si facesse il calcolo dal 2007, anche se il danno è prescritto, sarebbero 8 milioni di euro, perché per affittuari a prezzi in media 5 volte inferiori rispetto ai canoni di mercato. Si tratta di una settantina di appartamenti di proprietà dello Stato, e già nel 2010 il Ministero dei Beni Culturali aveva fatto un richiamo, effettuando un'ispezione in sovrintendenza, e rileva il mancato aggiornamento dei canoni, nonché l'irregolare assegnazione di alloggi demaniali a personale dell'amministrazione collocato a riposo oppure a loro eredi. Pure gli eredi. Allora, ci sono 2 dipendenti della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Firenze, Pistoia e Prato. Gli appartamenti sono stati affittati da 2 dipendenti, per lo più ad altri dipendenti della Sovrintendenza e ai loro familiari. Cito 2-3 casi così, per farci capire, per capirci. Appartamento in Piazza Pitti, 130 metri quadri. Quanto costa un appartamento in Piazza Pitti? Ma ovvio, costa 335 euro d'affitto al mese, e chi non lo sa? In realtà il valore di mercato è più sui 2.000 euro, ma sono dettagli. Un altro, piazzale di Porta Romana, 320 metri quadri. Quanto, chi conosce Firenze, quanto costerà 320 metri quadri a Porta Romana? Ma è ovvio, costano 800 euro al mese, e sono già tanti. Peccato che il valore di mercato si aggiri sui 2.500, ma sono dettagli. Così come io mi chiedo, e qui mi sposto al terzo posto, a Napoli, come sia possibile che il Teatro Mercadante, definito dal 2015 è assurdo al rango di teatro nazionale, ce ne sono 7 in Italia, di cui 5 sono fondazioni, il Mercadante ottiene 9 milioni di euro l'anno pubblici, perché gli dà la regione, il governo e il comune, ha ricavi per gli spettacoli per 1,5 milioni di euro, e già qui c'è un problema, nel senso che stai sovvenzionando, o ti metti a pareggio o se no devo capire, non è che possiamo sovvenzionare il Mercadante a vita. Ma la cosa interessante è che dentro il Mercadante ci sono 4 appartamenti occupati. Allora, questo è un teatro in cui manca ancora la sartoria, i camerini, e bisogna liberare alcune zone tecniche occupate da uffici amministrativi. I vigili del fuoco hanno detto che il lavoro di adeguamento per rendere agibile l'agibilità antincendio, hanno concesso ai vigili del fuoco una proroga, l'ultima proroga, entro la fine di questa stagione teatrale. Mercadante, come tutti gli altri teatri, deve avviare i lavori di adeguamento del palco e dell'assetto di platea per consentire l'adesione ai parametri di sicurezza previsti dalla normativa antincendi. Fa un'eccezione solo per Napoli, per il Mercadante. Ora, io capisco tutto, ma nel frattempo scopriamo che ci sono 4 famiglie che vivono da anni nello stabile, che ha bisogno di questi spazi per adibirli a uffici. Sentite cosa dice il presidente del consiglio di amministrazione del Teatro Mercadante di Napoli, che si chiama Walter Ferrara. Non abbiamo le chiavi di queste case. Chi ci vive si è barricato dentro. Non si sa se pagano un fitto o sono occupanti abusivi. Ma voglio dire, ma che è l'ISIS? Ma no, ho capito. Cosa hanno messo? Il filo spinato, i cavalli di Frisia? Ma non so che. Sono 5 piani trasformati in residenze. Un piano, l'ultimo, è vuoto. Al piano terzo sono i locali tecnici. Gli altri 3 piani ospitano 4 famiglie. Case da 100-120 metri quadri ciascuna. La palazzina si affaccia su Piazza Francese, alle spalle appunto dell'ingresso principale del Mercadante, appunto. E poi aggiunge con un ragionamento, insomma, il presidente del consiglio di amministrazione del teatro, appunto Walter Ferrara: non è che siamo a Secondigliano a Scampia, in un paese normale neanche a Secondigliano a Scampia. Con tutto rispetto per questi quartieri, siamo a Piazza Municipio. Se quelle famiglie risultassero abusive, non è che stanno occupando un posto periferico. Sì, ripeto, in un paese normale anche non potrebbero occupare anche un posto periferico. Ma io dico, la cosa inquietante, ma ricorda un po', cioè, insomma, il gobbo di Notre Dame, ma chi è? Non sanno chi vive nel teatro, non hanno le chiavi, non sanno se pagano un affitto, non sanno se sono abusivi, non sanno quanti sono. Beh, come controllo del territorio, quantomeno ci siamo, no? Tanto non sapere cos'è La Bella e la Bestia, non mi ricordo più perché non sono amante di musical, o era il gobbo di Notre Dame, poi adesso verifichiamo, che viveva nelle segrete, diciamo, del teatro. Allora, siccome ho un secondo e un primo posto pesanti, andiamo meteo, pubblicità e poi torniamo in diretta. 349-23, il fantasma dell'opera. Avete ragione, il fantasma dell'opera. Poi magari troviamo anche un Andrew Lloyd Webber sul fantasma dell'opera, che queste 4 famiglie sconosciute ai più, a tutti, con le chiavi. Ma da dove entrano? Io vorrei sapere. Si calano col lenzuolo, entrano dalla botola, non lo so, perché veramente è impressionante. Comunque, dai, meteo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Oh, volevate il fantasma dell'opera? Eccolo qua, il fantasma dell'opera, è riferito alle 4 famiglie di cui non conoscono chiavi, nome, si sono barricate dentro, non si sa se pagano un fitto, sono occupanti abusivi. Molti mi fanno notare, ma l'elettricità e l'acqua chi la paga? La pagherà il Teatro Mercadante, è ovvio, no? Se no avrebbero almeno l'utenza della bolletta e dell'elettricità e dell'acqua. Comunque, torniamo sulla classifica dopo aver raccontato. Mi mancavano i fantasmi nei teatri in questo paese. Prima o poi riusciremo a fare la classifica, la top 10 della top 10, o la top 5 della top 5. Andiamo avanti. Allora, secondo posto. Ora, noi ci siamo occupati anche con inchieste proprio di Radio 24 del dramma che sta vivendo il Sulcis, che è la regione più depressa, di una regione già depressa, che è la Sardegna. Dove è di quello che ha fatto l'Alcoa. La nostra Valeria De Rosa è andata 2 mesi fa a intervistare anche gli ex dipendenti, per cui massimo rispetto per una regione dove la disoccupazione è un dramma, anche perché appunto l'unica industria che funziona lì è quella militare, per il poligono enorme a Capoteulada. È un poligono di 7200 ettari. Alcuni dicono che ha preservato la macchia mediterranea, le dune di sabbia, messo a disposizione dai militari per le esercitazioni. I 450 km quadri di mare intorno a Capoteulada non sono, sono off limits per qualunque attività di pesca, e passare è consentito solo quando i bombardamenti delle esercitazioni si interrompono. Perché lo dico? Perché i pescatori dell'area, che non possono lavorare, ottengono giustamente dallo Ministero della Difesa un risarcimento, cioè un'area vincolata alla servitù militare e tu hai un risarcimento. Gli assegni variano dai 12.000 ai 15.000 euro l'anno. Ora, tra l'altro, assegni fondamentali perché per alcuni di questi sono l'unica salvezza dopo il licenziamento. Qual è il problema? Che questa misura sacrosanta in uno Stato civile ha scatenato un atteggiamento incivile, che stavolta non è colpa solo dello Stato o dell'amministrazione regionale, un atteggiamento incivile di falsi pescatori. Lo denunciano i veri pescatori, penso a Luciano Marica o Marica, uno dei più anziani pescatori dell'area. Pur di incassare questo sussidio, arrivano pescatori da ogni parte, dalla Sicilia, dalla Toscana, persino da Ancona. Cioè si comprano una barchetta, la portano lì e ci sono più barche che pesci, dicono i pescatori. Ora non penso, ma dico, ma visto che noi sborsiamo ogni anno, l'anno scorso, nel 2015, il Ministero ha sborsato 8 milioni di euro di compensazione, l'indennizzo viene riconosciuto a tutte le marinerie che operano nei pressi delle basi. Il 72% di questo indennizzo va ai pescatori del Sulcis, quindi diciamo più di 5 milioni di euro. Ed è per questo che l'elenco dei pescatori del Sulcis, nonostante l'attività ittica sia in crisi, continua a crescere. 82 in più nel 2014, 100 in più nel 2015. A Sant'Anna Arresi, a Teulada, le richieste di residenza aumentano ogni anno. Per ottenerli basta una semplice autocertificazione, tu dichiari che sei un pescatore, hai la residenza lì e il gioco è fatto. Ora, io capisco tutto. Hemingway scrisse un bellissimo romanzo, Il vecchio e il mare, ma non ha mai scritto La vecchia e il mare. Perché lo dico? Perché hanno caricato tra i finti pescatori, ci sono casi di casalinghe e casalinghe anziane. Ora, io capisco tutto, ma non me la vedo la casalinga anziana che monta sulla barca, parte di notte a pescare. Tutto può essere, faremo anche La vecchia e il mare. Dopodiché, con massimo rispetto, l'anziana e il mare. Ci sono tra l'altro pescatori veri che hanno inserito nell'equipaggio tutta la famiglia. Ora, io capisco tutto, ma insomma, adesso, ma che ci metti? Vai a pescare con lo zio, la zia, la suocera posso capire, ma casomai la usi come esca, se proprio devi. Questo avrebbe anche un senso per alcuni. Ma dico, il nipote, il figlio, tutti in barca a pescare. Ma che è? Un fuoriporta. Allora, dicevo, tutta la famiglia e poi i pescatori che in mare non ci sono mai andati. E tra l'altro gli indennizzi venivano incassati anche da persone che contemporaneamente percepivano la disoccupazione. E questo non si può fare. Tra l'altro, sotto inchiesta sono finiti anche dalla Procura di Cagliari, che ha già denunciato 35 persone, anche i vigili urbani accusati di non aver mai certificato che i pescherecci indennizzati fossero davvero ormeggiati nei porticcioli della zona. Io veramente la scena della nonna, la dentiera che va a pescare, con massimo rispetto per tutte le nonne di questo paese e del nonno lì, dai. Va bene. Sì, vabbè, vi prego, lasciamo stare i commenti un po' scurrili sulla famiglia pescare. Andiamo al primo posto dopo il traffico. Focus Economia. Allora, al primo posto torna un evergreen, nel senso che abbiamo visto in questa classifica di tutto, abbiamo anche visto l'ex numero uno dell'ANAS Ciucci contestare se stesso, cioè il Ciucci presidente che contestava se stesso, ma che contestava, o meglio, il Ciucci direttore generale che contestava il Ciucci presidente il mancato preavviso e da lì l'indennizzo, cioè sono casi di dissociazione totale. Ma non avevo ancora visto lo Stato che fa causa allo Stato. Lo Stato che fa causa a se stesso è, entriamo in un campo quasi hegeliano di metapolitica, lo Stato che fa causa allo Stato. E perché dico che torna un evergreen? Perché io sul ponte, sullo stretto, ho sempre avuto mille dubbi, non di più. Però poi uno dice, sei inserita in un'opera, cioè, vabbè. Intanto per ora abbiamo solo pagato, diciamo, le bozze, abbiamo solo pagato i disegni e la progettazione, ma non basta perché c'è anche una causa dello Stato contro lo Stato e allora andiamo al vincitore. And the winner is La società Ponte sullo Stretto di Messina è la Corte dei Conti a chiedere lumi, tra virgolette, sulla vicenda. Ci sono 67 pagine di relazione che descrivono nel dettaglio il groviglio del contenzioso in cui siamo precipitati e persino una causa giudiziaria in cui la società Stretto di Messina si oppone allo Stato italiano. La società Stretto di Messina è dello Stato italiano come Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il suo capitale è per l'81,8% in mano all'ANAS e il restante 18% è diviso tra Ferrovie dello Stato, Regione Calabria e Regione Sicilia, che hanno quote più basse, 2,5% ognuna. Quindi abbiamo un caso veramente interessante di Stato che fa causa a se stesso. Allora, purtroppo il tema è serissimo perché i soldi sono tanti. La concessionaria già incaricata della realizzazione del ponte chiede un indennizzo di 325.750.660 euro più un eventuale risarcimento, perché dice il pregiudizio, sottolinea la società, scaturente dalla mancata realizzazione dell'opera indotta dal venir meno della convenzione di concessione. La richiesta di indennizzo viene presentata al Ministero delle Infrastrutture ancor prima della messa in liquidazione dello Stretto di Messina, della società Stretto di Messina, lo fa notare la Corte dei Conti, e non c'è verso di fare cambiare idea. Tra l'altro il Ministero non si è ancora attivato, non risultano, scrive la Corte dei Conti, iniziative intraprese dal Ministero oltre quelle di resistenza in sede giudiziaria. Di resistenza, si sono legati alla sedia, si sono messi davanti alla porta, cosa fa? Si sono distesi in maniera gandhiana, no, non ti faccio entrare in aula, ma che è la resistenza in sede giudiziaria, al fine di superare il contrasto con la concessionaria. Nell'adunanza del 24 novembre 2016 la posizione conflittuale delle parti si è confermata ancora una volta. Allora, c'è anche di più, perché non solo la società Stretto di Messina chiede 325 milioni 750 mila euro più risarcimento, ma ha già ottenuto, cioè già costata a noi per il suo mantenimento in vita, 300 milioni denari versati con gli aumenti di capitale, sostiene la Corte dei Conti, deliberati nei precedenti esercizi. I soldi chiesti, sostiene la Corte dei Conti, rappresenterebbero quindi una duplicazione di costi, perché sono già stati pagati. Ma io non ho capito che indennizzo sia questo. Il pregiudizio. Allora, io ho un pregiudizio nei confronti della società Stretto di Messina, chiedo un risarcimento allo Stretto di Messina. Comunque, una situazione surreale, pagheremo due volte una cosa che non è mai servita una mazza. Comunque, oltre a quelli chiesti, ci sono anche dalla società Stretto di Messina, ci sono anche i soldi chiesti da General Contractor Eurolink, 700 milioni di euro, di cui 300 milioni per le spese sostenute e 329 per danni. E poi c'è la causa con il Project Management Consulting, l'americana Parsons Transportation, che rivendica 90 milioni, e quella con il monitore ambientale che chiede 1 milione. Insomma, 800 milioni di euro senza le spese legali e il tempo perso. E faccio notare che la società Stretto di Messina è stata messa in liquidazione il 15 aprile 2013 dal governo Letta, che affida l'incarico all'ex capo di gabinetto di Tremonti, che si chiama Vincenzo Fortunato, e avevano una delibera che entro un anno deve essere messa in liquidazione. L'anno è scaduto da quasi tre. La società nel frattempo è costata dal 2013 al 2015 poco meno di 13 milioni di euro, e la Corte dei Conti chiede, non siamo noi, un'incisiva iniziativa da parte delle strutture ministeriali affinché si riappropriano delle proprie competenze. Però il problema è che nel frattempo è stata eliminata la struttura del Ministero alle Infrastrutture e Trasporti che si occupava proprio dell'operazione, come diciamo chiudere la vertenza con lo Stretto di Messina. Ragazzi, è una cosa incredibile. E di questo dobbiamo ringraziare chi ha avuto l'idea di creare sto papocchio, e mi riferisco al governo Berlusconi. E se penso che l'ex Presidente del Consiglio Monte, buonanotte, Renzi, aveva reinventato l'ipotesi dello Stretto su Messina, per favore, non ne voglio più sentir parlare, perché il dato di fatto è che intanto rischiamo di spendere 300, li abbiamo già spesi, 800 milioni di euro per una cosa che manco c'è, non dico la prima pietra, ma neanche la bandierina, c'è niente, E basta con sto ponte ogni volta. L'unico ponte che in questo paese esiste è quello che si fa durante le festività. E basta, non se ne può, veramente non se ne può più. Comunque, un applauso alla società Ponte sullo Stretto di Messina, che fa causa a se stessa, cioè che fa causa allo Stato, lo Stato che fa causa allo Stato, il metastato, Hegel, aiutaci tu. Allora, tiriamoci su come sempre con la startup dopo un'altra classifica da Malox, Volta Robots. Buonasera a Silvio Revelli, presidente appunto di Volta Robots. Buonasera Barisoni, salve. Allora, Revelli, quanti anni ha, dove opera e che cosa fa soprattutto Volta Robots? Allora, 30 anni, sono di Varese, operiamo in provincia di Milano, oggi abbiamo il laboratorio lì, ma proprio in data odierna ci siamo insediati all'Insubria Biopark di Gerenzano, quindi siamo tornati in provincia di Varese con gli uffici e la programmazione. Volta Robots si preoccupa di droni e di controllo di veicoli senza pilota, quindi generalmente non solo quei droni che volano, ma parliamo anche di rover e veicoli sottomarini. Tutte queste tipologie di veicoli sono state presentate alla CES di Las Vegas poche settimane fa. Cioè voi fate appunto droni, cosa sono i droni semiprofessionali? Cioè che... Noi non produciamo droni, noi siamo in partnership con un'azienda taiwanese che fisicamente realizza i veicoli, noi ci occupiamo più che altro del sistema di controllo di intelligenza artificiale a bordo di essi, quindi il collegamento Internet of Vehicles, quindi l'internet delle cose declinato in particolare sul controllo di veicoli. E tra l'altro voi fate anche come prodotto di punta un sottomarino da 20 kg che costa $9,000. Sì, è corretto. Ecco, è non corretto. Fatelo sapere alla regione Molise, se no se lo compra dopo l'aliscafo per Međugorje. Ma lei non sa di cosa sto parlando, vabbè. È una vecchia vicenda dell'aliscafo. Resti con noi però invece perché vorrei capire il fatturato, i dipendenti e le prospettive dopo il GR24 349-238. 6666 per sms e whatsapp, e poi arriverà l'uccellaccio Sapelli per parlare di Theresa May, Trump, la settimana di Trump, l'Europa e anche i casi di casa nostra con le richieste dei commissari europei. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. I want to be free. 18 e 7 minuti, continuiamo con, anzi concludiamo il caso virtuoso della settimana, la startup che opponiamo volutamente chiaramente allo spreco di denaro pubblico, ossia chi si è rimboccato le maniche. Eravamo al telefono con Silvio Revelli, presidente di Volta Robots, ha 30 anni, laureato in ingegneria robotica al Politecnico di Milano, ha sede ad Arconate e lavorate molto sull'intelligenza artificiale. Noi delle volte ci accontenteremo anche di quella naturale, ma va bene uguale. E il sottomarino da 20 kg lo usavo come esempio. A chi avete venduto, quanto fatturate e quanti siete? Allora, noi nasciamo nel 2015 quasi per gioco, siamo due soci, ci troviamo subito sul nostro mercato di riferimento, quindi senza analisi preliminari, quasi per gioco, mettiamo subito un primo prodotto sul mercato, si chiama Forgimetri, e vediamo che effettivamente esiste una certa attrazione, seppur su una nicchia molto molto ridotta di addetti ai lavori. Abbiamo affrontato poi il 2016 senza un obiettivo di fatturato chiaro, in realtà il nostro obiettivo primario era sviluppare delle relazioni specialmente con i clienti per ricevere feedback, capire un po' come tira l'aria, sia lato clienti sia lato fornitori, quindi calarci proprio nella situazione. Mm. Tutto questo è stato fatto senza capitale di rischio né finanziamenti dalle banche con capitale nostro. Ma avete chiesto soldi alle banche prima di mettere il vostro capitale? No. Abbiamo scelto forse molto coraggiosamente di metterci energia economica, tempo e veramente molto impegno. Tutto di tasca nostra. Sappiamo che quanto è importante entrare in una situazione reale, quindi non valutare solo analiticamente quello che è poi questo mercato esplosivo dei veicoli senza pilota che già entrano nelle nostre case, nei nostri giardini. Allora, parecchie. Sì. L'ultima cosa che mi manca: il fatturato e i dipendenti. Oggi abbiamo, siamo i due soci e abbiamo parecchi collaboratori nel mondo, ovviamente cerchiamo persone più talentuose possibile, dove le troviamo le prendiamo. L'idea è, dopo un po' il bagno di sangue del CES 2017, affrontare i prossimi 18 mesi con risorse derivanti dalle vendite. Stimiamo qualche centinaio di veicoli venduti per 1-2 milioni di euro e arrivare con queste stesse risorse a portare qui in Italia una team di una decina di persone. Chiaro che se questi proventi di 1-2 milioni di euro ci venissero anticipati da un fondo di venture capital, è chiaro che ci troviamo immediatamente nel futuro di un anno e mezzo, di 18 mesi, senza sostanzialmente aspettare questo tempo. Quindi troviamo proiettati in una situazione sicuramente più competitiva. Allora, in bocca al lupo e nella speranza che assumiate anche poi i collaboratori, a lei, l'altro fondatore, quindi a Silvio Revelli, presidente di Volta Robots. Allora, la borsa dopo una settimana molto molto intensa, oggi è più tranquilla, meno 0,57% Milano, meno 0,57% anche Parigi, meno 0,30% Parigi, meno 0,30% Francoforte e più 0,30% Londra, invariata l'America, di nuovo forte già da ieri, ST Microelectronics dopo il piano industriale i conti, più 3,60%, Yux Net-a-Porter recupera dopo una settimana pesante, più 2,95%, Ferragamo più 2,5%, Luxottica più 2%, Buzzi Unice in più 1,80%, Fineco Bank più 0,80% come Intesa San Paolo. Unicredit invece di nuovo giù, ma ripeto, aveva fatto un balzo, meno 5,17%, Italgas meno 2,32%, Generali meno 1,5%, Atlantia meno 1,5%. Visto che parlavo di Unicredit e Generali, diamo anche da un Mediobanca che perde l'1,20% e Intesa San Paolo invece che guadagna lo 0,80%. Allora, le Poste italiane calano dopo una notizia che è presente oggi su Sole 24 Ore, in cui si sottolinea come il governo va a scongelare la privatizzazione di Poste italiane e vorrebbe vendere la quota residua del 30% entro il prossimo semestre e anche una quota dell'alta velocità per un incasso complessivo intorno ai 3,5 miliardi. E questo rientra anche nel tema che stiamo per affrontare, quello che ci chiede l'Europa, la dichiarazione molto secca, diciamo, di Dobrovolskis oggi. Voglio però dare i migliori e peggiori in assoluto: sintesi più 24%, gambro rosso più 16,90%, CIA più 12%, fronte opposto bene anche il credito valtellinese più 5,60%, fronte opposto visibile editore meno 16,70%, TAS meno 15%, Zucchi meno 9%. E allora andiamo sul prossimo tema e mi riferisco da un lato alla settimana di Trump, che si conclude tra virgolette oggi con l'incontro con Theresa May e anche il botta e risposta con il Messico, e poi invece la partita europea dell'Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Torna, ahimè, per alcuni anche nel 2017, l'uccellaccio. Allora, partiamo dalla settimana di Trump che nell'ordine ha firmato lunedì gli ordini esecutivi per uscire come Stati Uniti dal TPP, cioè dal Trattato Transpacifico di Accordo Commerciale con i paesi del Sud Pacifico. Ha incontrato il leader del business e ha detto: producete, assumete negli Stati Uniti, vi prometto un taglio del 75% della burocrazia e una riduzione delle tasse. Per il business dal 35% ve le potrò fino al 15 al 25%, sia per la classe media che per le aziende. Martedì Trump vede invece i leader delle case automobilistiche Ford, General Motors, Fiat Chrysler e dice: voglio posti di lavoro negli Stati Uniti, nuovi impianti di auto qui per auto vendute qui. Vi renderemo più facile il business, l'ambientalismo è fuori controllo e quindi fa capire che potrebbe rivedere le norme sulle emissioni, però chiede stabilimenti negli Stati Uniti e firma il decreto per la ripresa dei lavori di due mega oleodotti bloccati da Obama, due contestatissimi oleodotti, soprattutto dal tribù dei Pelle Rossa Sioux, il Keystone XL e il Dakota Access. Mercoledì Trump dice, indiscrezioni dicono che starebbe per emanare il decreto per ridurre il ruolo degli Stati Uniti all'ONU e poi annuncia: un grande giorno, costruiremo il muro con il Messico. E infatti il giovedì il muro che Trump ha ordinato di costruire, che costerà tra i 12 e i 15 miliardi di dollari, viene confermato allo speaker della Camera, lui si chiama Paul Ryan, e poi tassa del 20% sulle importazioni da Messico per pagare il muro. A quel punto poi dice anche i messicani devono contribuire al pagamento del muro, che alcuni hanno detto come se chiedessimo ai tacchini di saltare volontariamente dentro il forno. Magari devono pure anche rimbiancare ogni tanto e controllare la manutenzione. Ovviamente Nieto, il presidente americano, si arrabbia e cancella l'incontro a Washington. E arriviamo a oggi, altre dichiarazioni di Trump. Il Messico ha approfittato degli Stati Uniti per troppo tempo. Gli enormi deficit commerciali, poco aiuto sul davvero debole confine, devono cambiare ora. Bosch invece, il colosso Bosch, ha confermato gli investimenti 2017 sul Messico. E sostanzialmente si va anche verso una rottura, se continuerà così, del NAFTA, cioè l'accordo di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada. Neoprotezionismo, professor Giulio Sapelli, l'uccellaccio che vola sopra i confini messicani, californiani, non so dove sia, della Bassa California, buonasera. Buonasera Parisoni, non dica ahimè, arriva l'uccellaccio, perché io porto bene, porto la conoscenza quantomeno. Allora, professor Sapelli, qua, lei che insegna storia economica alla statale, un po' di protezionismo l'avrà studiato e insegnato in questi anni i suoi allievi. Siamo di fronte a un'ondata neoprotezionistica e, diciamo, ho capito che questo arriva dalla pancia, ma siamo così sicuri che la risposta a una globalizzazione che noi stessi abbiamo raccontato come fuori controllo, troppo finanziarizzata, in cui le multinazionali mettono la sede fiscale per pagare tasse dove più gli conviene, che la risposta sia la barriera? Dunque, innanzitutto Trump non fa altro che portare alla luce un processo in corso da circa 15 anni, 10 anni. Non si fa più un accordo multilaterale. Lei parli con Azevedo, che è il brasiliano presidente dell'WTO, che è disperato. Si fanno solo accordi bilaterali, che quando si studiava ancora economia, il professor Cardor di Cambridge, grande studioso, chiamava protezionismo selettivo. È circa 10 anni che noi facciamo solo accordi bilaterali, perché non riusciamo più a fare accordi multilaterali. Pensi un po', una contraddizione che qualcuno avrebbe dovuto rivelare, sarebbe sottoscritto, che l'ha scritto diverse volte. Come mai nel tempo della globalizzazione? È 10 anni che la globalizzazione arretra. Perché? Perché l'eccessivo peso delle finanze ha ridotto la base industriale mondiale. Anche nei cosiddetti BRICS sono crollati gli investimenti in beni capitali. L'America è disperata, Trump esprime la disperazione di una nazione che per 50 anni da dopo la Seconda Guerra Mondiale, come lei sa, ha aperto le sue frontiere, ha importato una massa enorme di beni da tutto il mondo, ma come spesso si dimentica, l'America esporta dal 7 al 10% del suo prodotto interno lordo. Naturalmente all'inizio questo bilanciamento commerciale era bilanciato dal fatto che uscivano dei dollari che andavano nei paesi che importavano, che esportavano in America, e i quali a loro volta impegnavano questi dollari nella piazza di Wall Street e anche un po' nel Regno Unito, e in questo modo alimentavano che cosa però? Non più l'occupazione, ma la finanza, creando quello che abbiamo visto dopo la crisi del 2007-2008. Questo spiega che Trump è il frutto della disperazione americana. Non a caso, alla fine dell'Ottocento, nacque anche allora il Populist Party, che era un partito populista, che la storiografia americana e anche europea, è uscito nel 2005 un libro bellissimo di Anatoly Lieven, uno studioso lituano che vive in America e tra America e Londra, che spiega queste cose e prevedeva l'apparizione di fenomeni come Trump, che sono fenomeni di American right or wrong, this is my country, ma che esprime la disperazione della classe media. Lei sa bene che per classe media negli Stati Uniti si intende impiegati, operai e classe media medio-bassa. Naturalmente quello che adesso lui che cosa fa? Dato che è uno scenografo, una persona che ha dietro di sé la lacerazione dell'establishment nordamericano, fa queste sceneggiate, però queste sceneggiate sono una manifestazione estrema di un processo che si inverava e che l'amministrazione Obama ha negletto, non visto e ha cercato di esorcizzare, come avevano già fatto i Bush, bombardando l'Iraq e portando l'America in guerra. Mi segue? No, sì, la seguo. Il ragionamento è chiarissimo. Dopo il traffico, le chiederò un ultimo commento su questo, cioè, ok, però il tema resta, noi che siamo un paese esportatore, che abbiamo nel mercato statunitense il mercato principale, come esportazioni fuori dall'Europa, io vedo tanti che plaudono al neoprotezionismo, a me sembra, per usare l'esempio del tacchino, come il tacchino che anticipa il giorno del ringraziamento, cioè insomma, noi non dovremmo festeggiare il neoprotezionismo, oppure ritiene che anche questa sia, diciamo, una strada percorribile in Europa? Perché poi le vorrei chiedere come ultima domanda del rapporto Roma-Bruxelles, torniamo ai casi di casa nostra. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, professor Sapelli, le ragioni storiche di un processo che era iniziato ben prima di Trump le ha chiarite molto bene, però il punto adesso è: torniamo a erigere barriere e soprattutto che ne sarà di noi, visto che è 8 anni che raccontiamo alle imprese aumentate la quota di export, andate sui mercati emergenti e anche sui mercati già belli emersi come Stati Uniti? Ma sono teorie sbagliatissime, perché abbiamo visto dove ci ha portato su una economia che vive solo sull'esportazione, alla deflazione interna e alla distruzione dei mercati interni. L'economia funziona bene se c'è un mix tra grande e piccolo, tra finanza, industria, economia reale e soprattutto se c'è una forte domanda interna. Quindi adesso il 70% del nostro patrimonio industriale, che nessuno può contestarmelo, lavora per il mercato interno, ma sta morendo perché la politica deflattiva ha distrutto lentamente il mercato interno. Trump è una buona occasione per aumentare i salari, selezionare le imprese, favorire anche le piccole e cominciare a far salire il mercato interno. La teoria dell'export led, che le economie sane erano solo quelle che esportavano, ha distrutto gran parte del nostro patrimonio manifatturiero, ha abbassato la domanda, è stato anche un uso ideologico per tagliare i salari e mortificare i lavoratori. Allora bisogna che noi da Trump prendiamo l'aspetto positivo, non le sue pagliacciate pericolosissime. Sì, deflazione creata anche dai tedeschi, ma non voglio tornare su come l'Europa si è mossa. Pigliamo che c'è, bisogna possiamo anche aggiungere che a questo punto leviamo anche le sanzioni con la Russia, perché Ma certo, ma è quello che lui sta facendo. Naturalmente quando abbiamo creduto a Obama e alla signora Clinton, che hanno ripreso la guerra fredda, ma però dato che era politica al corrente dire che la signora Clinton e Obama erano nel giusto, ci ha rovinati, ma soprattutto l'Italia. Giusto? Vabbè, su questo guardi, sulle sanzioni alla Russia che penalizzano soprattutto noi in un'Europa che, mentre i tedeschi vanno avanti a costruirsi il Nord Stream, abbiamo fatto intere puntate. Sapelli, in questa logica però, adesso non vorrei cadere troppo nel prosaico, però noi stiamo affrontando, oggi abbiamo fatto ascoltare la dichiarazione di Dobrovolskis e di Padoan, un tema con l'Europa che ci dice no, vogliamo una lettera entro il 1 febbraio, 3 miliardi e 4, Padoan ha detto attenzione che se ci arriva una procedura di richiamo andiamo a bruciare la reputazione che ci siamo creati in questo periodo. Insomma, mi sembra che l'Europa continui a occuparsi più che altro di casi suoi. E sappiamo che l'Italia ha il problema delle elezioni, cioè se vai alle elezioni a giugno, una manovra correttiva non è che proprio sia ben vista da chi governa. Senta, lo dice, me lo dica, questi sciocchi che dicono che abbiamo bisogno di unione politica, ma come si fa a avere unione politica quando ogni elezione, ogni Stato pensa solo ai fatti suoi? Ma scusi, ma è chiaro che l'Europa non ci va più bene, un abito troppo stretto, è finita la cuccagna degli anni di crescita, adesso comincia un lungo periodo di vacche magre, l'Europa non va più bene. Noi dovremmo cominciare, come un po' di luce c'era fatta quando avevo sentito che avevamo minacciato di votare contro il bilancio europeo, poi ci siamo astenuti. Se non cominciamo a comportarsi come se loro non ci fossero, stia tranquillo che dopo i mercati, i cosiddetti mercati che sono poi 7-8 fondi istituzionali, stia tranquillo che i mercati non ci penalizzano, perché i mercati cominciano ad avere terrore di questa Europa. Ma io sull'idea che noi dovessimo prendere una posizione più dura, lei sa che abbiamo fatto intere puntate, certo, anche su questo e sull'Europa ragionistica, però voglio fare l'avvocato del diavolo del ministro Padoan, dice attenzione, qui poi una procedura di infrazione va a rovinare ministro, la nostra credibilità. Prego. Il ministro Padoan, dopo quello che ha detto oggi sulle assicurazioni generali Intesa, che ha detto che è un'economia di mercato, vorrei che stesse zitto per un po' di mesi. Perché? Perché dopo quella cosa che sta capitando sul nostro risparmio, generale a 70 miliardi di BTP, certo, se vanno in mano ai francesi e questi decidono di venderli, siamo belli che finiti. Beh, lì la vicenda, la vicenda lì, fa quella dichiarazione lì, non è né un economista né un uomo responsabile. Doveva tacere, quindi non mi venga a dire cosa devo fare in Europa, perché proprio non ce n'è bisogno. No, una chiosa sulle generali, ne parlavamo anche in apertura, tutta la settimana che ne parliamo. Io penso che lì la vicenda Pioneer, cioè il fatto che Pioneer sia stata venduta ai francesi, Pioneer aveva debito italiano dentro, certo, molto meno. Però il timore, lo dicevamo in apertura, è quando tu hai un gruppo che oltre ad avere 500 miliardi di asset ne ha appunto 70 circa di titoli di Stato, tu hai un rilievo sistemico totale di questo gruppo, con buona pace di Trieste e dei francesi e dei non francesi. Aggiunga poi, che lei sicuramente lo sa, ma si era dimenticato di dirlo, che anche la Socia, grande compagnia di riassicurazione francese, adesso è diventata azionista di Cattolica Assicurazione. Sì, sì. Quindi il cerchio si sta restringendo. Mm-hmm. Finirà che l'industria italiana va ai tedeschi e la finanza e tutti va ai francesi. E poi ti dice che ho operazioni di mercato, ma per favore, dai. Allora che, quindi tornando e chiudendo sul tema politico di queste ore, cioè Roma e Bruxelles, lei dice che al di là che si va alle elezioni a giugno, a ottobre, non so quando, noi dovremmo iniziare a contestare anche lo 02? Ma proprio perché andiamo ad elezioni, non bisogna fare in modo che la pianta del nazionalismo, che poi è sempre xenofobo, spesso è antisemita, ahimè, basta vedere cosa capita in Francia e in Polonia, attecchisca qui da noi. Senta, secondo lei Trump, l'ultima domanda che mi fanno anche gli ascoltatori, comunque continuerà su questa strada, cioè al di là della parte... Se non gli fanno l'impeachment, sì, perché ha tutta la finanza legata a Clinton, a Soros contro, quindi è molto probabile l'impeachment. Però lui andrà in questa strada, naturalmente questo suo atteggiamento che ha da goscone e da maleducato non l'aiuta. Voli sul confine messicano, professor Sapelli, grazie a Giulio Sapelli, ospite per la prima volta nel 2017, ma mi sembra che i temi li abbia ben caldi dell'anno scorso. Da Sebastiano Barisoni, come sempre, un auguro di buon fine settimana a voi. In primo luogo un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e al programma. Un auguro di buon fine settimana soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.